alta voce. Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine. 23esima puntata. Luca camminò per qualche minuto rasentando i muri, ma la pioggia si veniva facendo più fitta. Pensò che doveva procurarsi un ombrello. Non aveva fatto 20 passi dopo aver formulato questa idea che tutto il vicolo si era accorto che lui aveva bisogno di un ombrello. «Signori, signori, volete un ombrello?» gli disse un ragazzo che gli si era messo al fianco. «L'amico do mio tiene un ombrello bello assai, per poco prezzo». E l'amico fu all'altro fianco di Luca dopo 20 secondi. Pareva sbocciato dal suolo. Aveva in mano un ombrello di seta color nocciola. Fece scattare la molla e l'ombrello si aprì con fulminea rapidità. Teso, lustro, senza un buco. «Signori, qui non ci passano neanche i fulmini», disse il ragazzo che, dopo un breve mercanteggiare, cedette il suo ombrello a Luca per 5 lire. Luca svoltò l'angolo col suo ombrello aperto. A un tratto, senza che avesse toccata la molla dello scatto, l'ombrello si chiuse con la stessa rapidità con cui si era aperto, mandandogli a schizzare il cappello sul fango della strada. Raccolse il cappello, premette la molla, l'ombrello si riaprì con lo schiocco di una staffilata. Si mantenne fermo sulle bacchette, forse per 5 minuti, poi si richiuse di nuovo. Luca entrò in un portone per tentare di fare una conoscenza più precisa con quell'arnese. Gli riuscì di ripararlo con la stessa facilità della prima volta, ma per quanto premesse la molla decisamente, lentamente, con 2-3 scatti, l'ombrello rimaneva aperto. Tornò nella strada tenendolo sollevato con la solennità d'un baldacchino e chiedendosi come avrebbe fatto a chiuderlo per entrare dalla Calabrese. Ma l'ombrello, quando Luca fu giunto all'ingresso della trattoria, si chiuse da sé. «Ah, il diavolo nel manico!» disse ridendo, e si propose più tardi, quando fosse rientrato nella sua camera, di studiare il modo di esorcizzarlo. Gli venne in mente che se Gesualdo fosse stato insieme con lui, avrebbero riso come pazzi. Entrò nella trattoria con il suo infernale giocattolo appeso a un braccio e andò a sedersi a un tavolo affollato da altri studenti. Non conosceva nessuno. C'era sempre Filippo, il cameriere, che ordinava 1/2 fagioli. Dopo aver elencato 10 pietanze raffinatissime, ma non lo riconobbe. Il suo compagno di tavolo, vedendo che appoggiava il suo ombrello in un angolo, gli disse: «Porta l'ombrello a donna Peppa, qui non lo puoi tenere». «E perché?» fece Luca. «Disposizioni del commissario di pubblica sicurezza. Sono successi tafferugli qui dentro nei giorni scorsi. Ci sono state visite di fascisti e abbiamo fatto a botte. Venivano per fare i prepotenti, per farci cantare le loro canzoni e gridare evviva al duce dei miei coglioni. È successo un pandemonio. Filippo si è preso 2 randellate in testa». «E voi? Non avete fatto nulla?» disse Luca. «Noi non andiamo d'accordo, caro mio. Alcuni hanno preso la parte di quegli schifosi, gli altri si sono battuti». «E stanno qui quelli che hanno aiutato i fascisti?» chiese Luca. «No, non sono più tornati, ma può darsi che tra la gente che sta seduta ai tavoli ci siano dei loro amici». Filippo si era avvicinato al tavolo di Luca. «Signorino, mi dovete dare l'ombrello». «E perché?» fece Luca con aria sorniona. «Ordine della polizia». Poi abbassò la voce e disse ancora: «Ordine per i fessi». Donna Peppa chiamò dal suo banco: «Filippo!» Filippo si voltò e disse: «Un momento». Luca prese l'ombrello stillante e lo consegnò al cameriere. Filippo lo sollevò al di sopra delle teste dei commensali e l'ombrello si aprì con il suo rumore a schiocco di staffile. Tutte le teste si voltarono verso il cameriere, che reggeva con viso esterrefatto l'ombrello aperto. Una voce gridò: «Qui non ci piove, Filippo!» Si udì ancora la voce di donna Peppa: «Filippo, qui ci sono 20 piatti che aspettano». Donna Peppa appariva, infatti, immersa in una nuvola di vapore che partiva dai piatti di fagioli, di trippa o di baccalà in guazzetto che la sguattera di cucina le veniva allineando sul banco. Filippo non rispondeva. Tentava di chiudere l'ombrello, ma l'ombrello resisteva ostinatamente. «Filippo, non è il momento di giocare!» gridò donna Peppa, adottando per il tono severo il suo italiano con le vocali tonde, mentre gli occhi carichi di bistro si muovevano furenti nell'orbita. «Donna Peppa, l'ombrello non si chiude», disse Filippo mentre continuava ad armeggiare per tentare di chiudere l'infernale ordigno. Donna Peppa scese dal banco rapida, ondeggiando sui fianchi poderosi, strappò l'ombrello dalle mani del cameriere e manovrò con dita frenetiche sulla molla. L'ombrello rimaneva aperto. Gli studenti si erano alzati e incitavano la donna con grida, sberleffi che aumentavano la sua rabbia. Donna Peppa, inviperita, scagliò l'ombrello verso il fondo della sala, contro il tavolo dal quale più violente partivano le grida. L'ombrello volò contro vento nell'aria fumosa della stanza e cadde ermeticamente chiuso ai piedi del tavolo. Luca rideva a crepapelle, tentando di raccontare ai suoi vicini quello che gli era capitato per la strada. Era tanta la sua allegria che non si era accorto che Giulio D'Angelo era andato a sedersi al suo tavolo, di fronte a lui. Quando l'impeto del riso si calmò, il compagno che Luca aveva di fianco gli disse, indicando Giulio: «Lui c'era l'altra sera quando vennero i fascisti». Luca fece un allegro cenno di saluto a Giulio e volle raccontargli la ragione delle sue risate e del chiasso che aveva trovato in trattoria. Giulio disse: «Ah, l'ombrello era tuo? Quando a Napoli c'è un oggetto che nessuno vuole, lo compra Luca Marano. Attento ai manfroni, ragazzo». «Gli stavo raccontando», disse lo studente che era vicino a Luca, «che tu hai fatto a botte coi fascisti quella sera che vennero armati». Giulio D'Angelo fece un cenno vago con la mano e chiamò il cameriere. «Arturo Pignato», disse a Luca a bassa voce. «Parla bene, D'Angelo. A principio si trovò solo contro tutti, ma poi capimmo che aveva ragione lui e lo abbiamo aiutato». «E non sono più tornati?» chiese Luca. «Quelli no, ma ne sono venuti degli altri. Però non è successo nulla di grave». Dopo qualche minuto qualcuno gridò: «Chiudete la porta!» Tutte le teste si volsero verso l'ingresso e una ventina di giovani in camicia nera entrarono precipitosamente nel locale. Giulio D'Angelo non si era voltato. Continuava a sbocconcellare il suo pane in apparenza tranquillo, ma era diventato pallido. Filippo era rimasto con due piatti in mano e non osava più muoversi. Donna Peppa si alzò dal banco e si avvicinò al gruppo. «Che desiderate?» disse cortesemente. E poi, rivolta al cameriere: «Filippo, sgombra un tavolo». «Non siamo venuti per mangiare», disse il fascista che era in prima fila. «Cerchiamo qualcuno». «Ma qui non c'è nessuno». «Io non voglio guai», diceva donna Peppa. «Io mando a chiamare il commissario. Filippo, il commissario», aggiunse rivolta al cameriere che aveva deposto i suoi piatti sul banco e guardava immobile la scena. I fascisti fecero il giro della sala. Il capo a un tratto si spostò dal suo punto di osservazione e andò verso il fondo. «Sono quelli dell'altra sera», disse con un sussurro Arturo Pignato a Luca. «C'è anche uno del mio paese», rispose Luca a voce bassissima. «Si chiama Gino Pistalli. Cercano te, D'Angelo. Non ti voltare», fece Arturo. «Se non ti vedono, se ne vanno». «Tu hai paura?» disse Giulio D'Angelo. «Io no, ma hanno i manganelli e forse anche le pistole». Nella sala non si udiva che lo stropiccio dei passi di quelli che ispezionavano i tavoli e il rumore delle forchette degli studenti che continuavano a mangiare con ostentata calma. «Hanno chiuso la porta», disse Pignato a Luca. Luca non mangiava, seguiva il movimento dei fascisti. Pistalli non doveva averlo notato, perché guardava dalla parte della cucina, come se temesse da quel lato un improvviso attacco. Il capo tornò indietro. Raggiunse il tavolo dove era seduto Luca. Il suo sguardo si arrestò su Giulio D'Angelo. Disse: «Lo sapevo che c'eri». Fece un rapido movimento, gli mise la mano sulla spalla e intimò: «Alzati, devi venire con noi». Giulio D'Angelo si alzò, si mise di fronte al suo interlocutore, con le mani appoggiate all'orlo del tavolo. «Perché dovrei venire con voi? Io sono qui per mangiare. Sono in un pubblico locale». «Ci vieni per fare il lavativo, non per mangiare. Giovedì scorso hai fatto la morale ai tuoi studenti che ci sono saltati addosso. Tu qua non ci devi stare, vieni con noi». E tentò di abbrancarlo per i risvolti della giacca. Giulio gli afferrò le mani con energia e disse freddamente: «Mani a posto». Il fascista, che era accanto al capo, alzò il manganello, ma si sentì il polso stretto in una morsa di ferro. Luca gli tolse l'arma dalle mani, lo afferrò per il petto e lo scaraventò come una balla di stracci sul branco dei compagni. «Fermo! Siamo disarmati!» gridò una voce dal fondo. Ma Luca fulmineamente agguantò una seggiola e percosse con furia quelli che gli stavano davanti. Poi fece uno scarto verso destra per schivare un colpo di manganello e si mise dietro al banco di donna Peppa, che era fuggita in cucina e chiamava i suoi santi a voce altissima. Incominciò ad afferrare i piatti e ne lanciò due pieni del loro liquido bollente sul viso di due fascisti che avevano tentato di avvicinarsi. Al centro della stanza c'era un gruppo avvinghiato come un grumo di lombrichi e si sentivano bestemmie e urla. Dal fondo si udì un grido e un tavolo si rovesciò. Gli studenti incalzavano con le seggiole levate i fascisti. A un tratto due uscirono dal groviglio, si misero contro una parete e cercarono a furia la pistola nella tasca. Luca fece un salto e fu loro addosso. Li inchiodò contro il muro, li attrasse a sé, li sbatté contro la parete come due sacchi di noci. «Figli di puttana, le pistole, eh? Le pistole!» Li mollò quando li vide abbiosciarsi sulle gambe come due ubriachi. Contro la porta si udiva intanto un baccano d'inferno. «La polizia!» gridò Filippo, che aveva in mano soltanto il manico dell'ombrello di Luca. «Venite!» disse poi. «Si può uscire dalla parte della cucina». «Dobbiamo andare!» fece Giulio D'Angelo. «Aspetta!» fece Luca, che aveva agguantato Gino Pistalli per il colletto. Il giovane diceva: «Luca, che fai? Siamo paesani, Luca!» Luca lo lasciò, dopo avergli dati due ceffoni. «Hai paura, eh? Porco!» Poi seguì Giulio D'Angelo. Tutti gli altri studenti filarono dalla parte della cucina. Luca arrivò a Calena nelle prime ore del mattino. La città era tranquilla. Il movimento di camicie nere che tornavano da Roma o tentavano di raggiungere in ritardo la capitale si era andato facendo più rado ai margini dei monti. Per raggiungere la casa dello zio, Luca percorse delle straducce solitarie, evitando il centro della città. Camminava a passo rapido, rasentando gli usci che si andavano destando nella nebbiosa mattina. Lo zio era già in piedi. Lo accolse col suo solito sorriso affettuoso. Fece «Oh!» senza tendergli la mano. Luca si mise a sedere. Pareva sottinteso che tra lui e lo zio non fosse necessario parlare a lungo per entrare nell'argomento principale del loro incontro. Luca disse «Quelle carte». «Fammi vedere quelle carte». Lo zio andò verso un tavolo, aprì il cassetto e gli mise davanti un fascio di foglie. «Vedi», disse, «quando ti ho telegrafato non sapevo che cosa significasse SABS. Significa Società Anonima Bonifica Sacramento. L'anonima ha sfrattato 20 contadini che avevano un vecchio contratto di affitto dalla parte delle masserie del Frassino. Mi sono allarmato e ti ho mandato un telegramma, ma quella sera non sapevo altro. Poi ho saputo dal notaio Iannaccone che per tutti gli altri stanno arrivando i contratti di affitto. Sono escluse le contrade di Cecanibbio, Testa Morta e Scivalunga. Danno in affitto le pietraie e si tengono le terre grasse. Ho capito, fece Luca a bassa voce. Si cacciò il fascio di carta sotto il braccio e aggiunse: queste le tengo io. Si rimise il cappello in testa e uscì rapidamente. Lo zio, sorpreso da quella mossa fulminea, non fece in tempo a raggiungerlo. Gli gridò dall'imbocco delle scale: Luca, sei matto? Io devo fare il mio dovere. Luca lo sentì per qualche istante che gli stava alle calcagna col fiato grosso e lo veniva chiamando a voce soffocata per non far capire alla gente il suo orgasmo. Luca rimontava a passo veloce i vicoli verso Piazza della Fraterna. Arrivò allo studio Iannaccone e si precipitò nella stanza del notaio. Il notaio era molto mattiniero e stava già seduto al suo tavolo di lavoro. Come lo vide, gli disse: tu a Calena? Quando sei tornato? Un'ora fa. Il notaio fece uno sbadiglio e si passò la mano magra più volte sul viso. Poi gli disse con la sua solita voce stanca: riprendi il lavoro subito? Abbiamo molto da fare. Pensandoci bene, dico che è meglio che tu sia tornato. A Napoli ti sei mischiato in cose che non ti riguardano. Hai fatto a botte coi fascisti. Tu sei un ragazzo povero e non ti dovresti mettere in questi imbrogli. Ti vorrei consigliare, anzi, di non farti rivedere in giro. Gino Pistalli ha scritto a suo padre che tu lo volevi ammazzare. Suo fratello è andato a Roma con gli altri, ma quando torna sta attento. È un uomo violento, non te la perdonerebbe. Luca lo lasciava parlare, ma pareva non capisse esattamente quello che il notaio diceva. A un tratto gli mise sotto al naso il fascio di carte e disse: lei sa nulla di questa faccenda? Come? So nulla. Le ho date io stesso a Natalizio. Allora lei sa chi gliele ha mandate. Lei sa dove si trova la signora Cannavale. Lo dovrei sapere, fece il notaio lentamente. Io ho ricevuto quelle carte dalla Sabs, che ha la sede a Roma, in via del Seminario 14. Io faccio il notaio, non sono tenuto a conoscere l'indirizzo delle belle signore. Lei lo sa l'indirizzo. Lei immagina anche perché io voglio conoscerlo. Lei non dice la verità, fece Luca, battendo il pugno sul tavolo. Il viso del notaio si coprì di un velo di rossore e poi tornò pallido. Si alzò lentamente, guardando Luca negli occhi. Tu hai capito che da oggi non puoi più mettere piede in questa casa. Gli voltò le spalle e rientrò nel suo appartamento. Luca uscì, aveva la testa in fiamme e i muscoli della faccia stirati come se l'avessero percosso. Attraversò Piazza della Fraterna e si diresse verso Terra Vecchia. Entrò nella bottega del padre di Gesualdo e pregò il vecchio barbiere di far chiamare il figlio. Deve essere a letto, fece Gabriele. Non si alza mai prima di mezzogiorno. Il ragazzo di bottega montò su per la scaletta e andò a chiamare Gesualdo. Dopo qualche minuto l'amico scese e gli andò incontro premurosamente. Ma perché sei tornato? Sei malato? Senti Gesualdo, io ho bisogno di te. Gesualdo lo fece salire in casa, si misero a sedere accanto al camino e Luca raccontò quello che gli era successo. Tu non sapevi? Disse Gesualdo. Sabs, una anonima. Il 40% delle azioni a Laura Cannavale e marito. Il 45% al Credito Meridionale che ha liberato la terra dalle ipoteche. Il 15% al notaio Iannaccone. Mi hanno tradito, Gesualdo, fece Luca. Ma io ho bisogno di informare la signora Cannavale. Lei deve sapere quello che io posso fare. Lei deve tornare. Lei è sempre proprietaria di gran parte delle terre del Sacramento. Non farà nulla, disse Gesualdo. Ha incassato dei milioni, donna Laura Cannavale. Che vuoi che gliene freghi dei contadini di Morutri? E tu sta attento, Luca, non ti far vedere. Il tenente dei carabinieri diceva ieri sera al circolo che l'ordine sarà mantenuto con estrema energia. Sta attento, Luca. Facciamo sempre le pecore. Io non posso abbandonare i contadini di Morutri. Sono 6 mesi che lavorano e gli lasciano solo le terre secche, piene di sassi. Nelle altre vogliono fare l'allevamento dei bovini e a Macchia Loreto il taglio del bosco. Bene o male, ci hanno campato i cafoni di Morutri sulle terre del Sacramento. Sulle terre in affitto pagavano le quote di 100 anni fa e avevano pascolo libero e ghianda per i maiali. Ma adesso hanno aumentato gli affitti sulle pietraie di 20 volte. È la fame, lo capisci? È la fame. Gesualdo lo ascoltava calmo, con la mano appoggiata al mento. Capisco, ma tu che puoi fare? Tu non hai un impegno legale, non hai una carta scritta, non hai che promesse, promesse di una donna, una puttana che in un anno ha preso marito, lo ha spogliato, gli ha fatto le corna, ha incantato un prete e ha messo nel sacco te e 2000 cafoni. Gesualdo, che aveva parlato con una foga insolita in lui, aggiunse con voce opaca: «Ci ho pensato, sai, Luca, a quella storia, mentre tu eri a Napoli. In questi ultimi giorni al circolo non si parlava d'altro che della Sabs». «E il lavoro dei contadini», diceva Luca come a se stesso, «hanno grattato la terra per 6 mesi». «Il lavoro lo pagheranno», fece Gesualdo. «Iannaccone ha detto che le giornate verranno pagate. Poi qualcuno dei contadini potrà essere preso come giornatante fisso. Gli altri lavoreranno quando ci sarà bisogno di loro. Sempre a giornata, sempre giornatieri. Il lavoro quando piace a Cristo e al padrone». Luca si era alzato e parlava a voce alta e concitata. «È comodo questo. Troppo comodo. Donna Laura Cannavale non sa di che cosa sono capaci i contadini di Morutri. Lei non sa la storia del 98. 200 uomini sono già stati in galera. Ci possono ritornare, ma questa volta non cederanno. Se cedono è finita. Nella piana hanno incominciato ad arare e mietere con le macchine. In America non si può più andare. È finita anche la porca guerra. Sono finite anche le schioppettate e le pagnotte militari». Gesualdo si era alzato anche lui. Nei suoi occhi piccoli, sepolti nel grasso cinereo delle orbite, aveva un'inquietudine insolita. Prese il braccio di Luca e disse lentamente: «Luca, tu devi stare attento. Sono forte. Senti, fa una cosa. Va a Morutri. Spiega ai tuoi compaesani quello che è successo stasera stessa. E poi torna a Napoli. Se rimani qui, t'arrestano. Tu sei stato da Iannaccone. A quest'ora i carabinieri sanno che tu sei a Calena. Tutta la città è piena della storia degli schiaffi che hai dati a Pistalli. Aveva un revolver. Mi voleva ammazzare». «Lo credo. Ma se ti denunzia, ti arrestano. Il fratello non c'è. Non è ancora tornato da Roma. È andato a fare la rivoluzione. Ma tornerà. E quando torna, non ti salvi. Sta attento, Luca». «Senti, Gesualdo, non possono farmi nulla. Secondo la legge non possono arrestarmi. Io ho fretta di andare a Morutri. Ma anche se non è legale, capisco che potrebbero arrestarmi. Io ho bisogno di avvertire la signora Cannavale con un telegramma». «Ho capito. Vuoi minacciarla per telegrafo, dall'ufficio di Calena? Luca, tu sei impazzito. Non minacce. Vorrei dirle solo di tornare per affari urgenti. Andrò a casa Cannavale. Lì qualcuno conoscerà il suo indirizzo. Se non trovo l'indirizzo, tu fammi due telegrammi, uno a Napoli al Credito, uno a Roma alla Sabs. In qualche posto la troveranno. Mi fai questo piacere? Gesualdo prese il cappello e disse: vengo con te dai Cannavale, rimarrò fuori ad aspettarti. Luca gli mise una mano sulla spalla e gliela scosse due o tre volte per ringraziarlo.